Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, Ave Maria a tutti, santa serata e ben ritrovati sulle frequenze della nostra web radio, dove riprendiamo con il sottoscritto le trasmissioni dedicate al più santo dei santi e le riprendiamo esattamente dal punto in cui le avevamo lasciate. Noi stiamo completando, e non ci saranno ancora molte meditazioni da fare, circa 6-7, le meditazioni su San Giuseppe che fanno risplendere le virtù di questo grande santo, del beato Bartolo Longo, come ricorderete nell'aureo libretto, il mese di marzo in onore di San Giuseppe, edito dal Pontificio Santuario di Pompei. Oggi, vengo subito al tema di oggi, il beato Bartolo Longo presenterà un aspetto particolare della virtù di San Giuseppe, che è quello della penitenza. San Giuseppe, modello di vita penitente. Voi sapete che il tema della penitenza oggi è un po' considerato fuori moda, a volte a mio avviso con un po' troppa precipitazione, pressappochismo e anche non corretta informazione, diciamo così. Si liquida questo argomento in maniera un po' troppo frettolosa, dicendo: il Signore ha sofferto per noi sulla croce, la Madonna anche ha versato tutte le sue lacrime, loro hanno già pagato i nostri debiti, il corpo è tempio dello Spirito Santo, dobbiamo trattarlo con rispetto, quindi la penitenza non serve a niente. Io sto chiaramente semplificando, certamente non si sente, almeno spero, dire in giro le cose in questo modo, in questi termini e con questa, diciamo così, radicalità. Ecco, però a volte, almeno per quanto mi consta dalla mia esperienza pastorale, dai miei colloqui con le persone, diciamo così, l'importanza e proprio, come dire, la basilarità, oserei dire, della virtù della penitenza nella vita cristiana è stata un pochino smarrita, e questo sotto tutti e due i punti di vista, sia la penitenza sacramento che la penitenza virtù. Ovviamente il beato Bartolo Longo, parlando di San Giuseppe, accentua la dimensione della penitenza virtù, quindi dell'ascesi, della mortificazione, per dirlo con un'altra parola. Ecco, però, ecco, dopo nella piccola, diciamo così, come sempre, meditazione che io mi permetterò di fare sulle parole del beato, ecco, spero di poter fare anche qualche piccolo cenno alla penitenza sacramento, perché questi due aspetti, la penitenza sacramento e la penitenza virtù, oggi sono strettamente connessi, per cui la crisi dell'una si riverbera nell'altra e si condizionano, come dire, si favoriscono, si danneggiano a vicenda, in una sorta di mistica corrispondenza biunivoca, ecco, che bisogna assolutamente, a mio avviso, avere chiara, in modo tale da poterla vivere in entrambe le dimensioni, perché questa virtù, nello stato di natura decaduta che tutti noi abbiamo, è assolutamente primaria, fondamentale, per non dire indispensabile. Comincio con la lettura del testo del Beato. San Giuseppe, modello di vita penitente. Non dobbiamo immaginarci che ordinariamente, non parlandosi di penitenze esercitate da San Giuseppe, egli non ne facesse. Tutti i santi furono attentissimi a celare le loro austerità. Quanto più dunque sarà stato guardingo dal manifestarle San Giuseppe, il più umile fra tutti. Ovviamente il beato Bartolo Longo intende il più umile fra tutti dopo la Madonna Maria Santissima. Leggiamo nella mistica città di Dio, della venerabile Maria di Agreda, approvata dalla Chiesa, la seguente rivelazione fatta dalla Santissima Vergine. Giuseppe non volle mai avere un letto e solo si sedeva a qualche modo in qualunque sito per dare un breve riposo al suo corpo affranto dalla fatica, appoggiando per solito il capo ad una mano. E così morì, perché era oltremodo penitente in tutto. Anche ad un'altra santa, dice il padre da Cochem, Maria rivelò sugli anni vissuti a Nazareth cose che provano sempre più la grande austerità della Santa Famiglia. Aperte virgolette, queste sarebbero parole della Madonna. Il nostro cibo era cattivo e scarso, e i giorni di digiuno, che erano molti, li osservavamo in tutto il rigore. Non si mangiava mai carne in tutto l'anno, eccetto quella dell'agnello pasquale, o quando ci invitava qualcuno. In tali casi preferivamo farci simili agli altri per poter avere migliore ascendente sulle anime loro e tirarle a Dio. come sono commoventi queste parole della Madonna. La Emmerich, oggi beata, racconta nelle sue rivelazioni con quanta temperanza si contenesse sempre la Santa Famiglia nel prendere cibo. Per lo più quella mistica li vide mangiare solo dei piccoli pani con alcune fave, oppure degli ortaggi, e talvolta un po' di pesce. Solo nel deserto, dove l'acqua non era potabile, vide mescolarvi qualche goccia di balsamo. La venerabile Maria d'Agreda descrive parimenti la completa astinenza che Gesù, Maria e Giuseppe facevano dalle carni in questo modo. Mangiavano ben poco e subito dividevano fra i poveri, specialmente i malati, il resto delle vivande e anche il denaro che avevano guadagnato con i loro lavori. Tanto Maria quanto San Giuseppe visitavano con frequenza gli infermi e sovente Giuseppe prendeva con sé il bambino. Questi alle volte concedeva agli ammalati la salute del corpo e più spesso grandi grazie alle loro anime. Nell'Egitto, dove era necessario risvegliare la fede, Gesù operò anche delle guarigioni miracolose, non così a Nazareth, dove voleva vivere sconosciuto sino a che non fosse giunta l'ora di manifestarsi in pubblico. Però, come dissi, alcuni malati guarirono quando Giuseppe li visitava col bambino, ma si attribuiva la cosa all'onnipotenza divina, senza che i risanati comprendessero che la salute procedeva da Gesù Cristo. Chiuse le virgolette e chiusa citazione della venerabile Madre d'Agreda. Conclude il beato Bartolo Longo: la vera virtù della penitenza cristiana consiste nello spirito di continua orazione, nel tenersi sempre alla presenza di Dio, nel reprimere le nostre passioni, nello stare vigile sui movimenti del proprio cuore e nel seguire gli impulsi della provvidenza. Mortificate oggi la vostra gola per amore di San Giuseppe col lasciare qualche vivanda che più vi gusta. Dite tre volte Gesù, Giuseppe e Maria, scolpite i vostri nomi nel cuore mio. Questo è il testo della breve ma intensa meditazione. E voi sapete che adesso io conosco per esempio bene anche una mistica italiana del secolo scorso, che è Maria Valtorta, che certamente con meno dovizia di particolari però spiega come le cene, i pasti nella casa di Nazareth erano sempre abbastanza frugali: pane, formaggio, qualche verdura cotta, qualche oliva o cose di questo genere, quindi non erano certamente dei pranzi sontuosi. Ora, io non so, come dire, gli ascoltatori se come e quanto sono pratici, della agiografia cristiana, ma i grandi santi, tutti i grandi santi canonizzati, sono stati sempre molto rigorosi nella pratica dell'austerità, della penitenza, in particolare del digiuno e anche di altre forme di austerità della tradizione della Chiesa, tuttora praticate, non pensiate che siano completamente obsolete. A volte si pensa che sono obsolete perché questi gesti, come anche in San Giuseppe, vengono sempre compiuti nel più assoluto riserbo e silenzio, perché non se ne può e non se ne deve assolutamente parlare con nessuno. Ora, il senso della penitenza è fondamentale, perché per i giusti come Gesù, Giuseppe e Maria, la penitenza serve semplicemente a due cose: uno, ad avere un dominio perfetto dei propri sensi e delle proprie passioni, in modo tale che non siano mai asservite a ciò che è basso o a qualche cosa che sia in qualche modo non perfettamente virtuosa. Ma la seconda è che vengono offerte come espiazione, come riparazione, per ottenere la conversione dei peccatori. Del resto, se voi pensate, Gesù, per redimere l'umanità, ha sofferto terribilmente, quindi poteva anche, certamente, dice San Tommaso, no? La redenzione poteva essere fatta in 100 miliardi di altri modi possibili, ma il Padre ha scelto quel modo, quindi anche essendo chiaramente possibile molte altre forme, vuol dire che questo modo era il modo più conveniente e più perfetto in assoluto, perché Dio non fa scelte inutili. San Paolo nelle sue lettere dice: vi esorto ad offrire i vostri corpi, parlando ai cristiani, come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Quindi vuol dire che la penitenza di Gesù, di Maria e di San Giuseppe in qualche modo deve essere partecipata da noi. Come? Ecco, ci sono due grandi forme, una forma della penitenza virtù, che è quella con cui il beato Bartolo Longo conclude la meditazione. C'è la penitenza sacramento, che per noi è oltremodo necessaria, dopo che Gesù ha istituito questo sacramento, che chiaramente San Giuseppe non poteva celebrare perché Gesù non aveva compiuto la redenzione e non c'erano ancora i sette sacramenti, altrimenti l'avrebbe certamente fatto, perché San Giuseppe, a differenza di Maria Santissima, come sappiamo, era stato toccato dal peccato originale, sappiamo poi subito presantificato, eccetera, eccetera, però sicuramente avrebbe desiderato confessarsi, probabilmente come facevano i grandi santi, per dire qualche impercettibile imperfezione che magari, come accade nella coscienza dei santi, dalla sua sarebbe stata percepita come la tragedia più grande del mondo, no? Ecco, basta leggere quello che scrive, per esempio, il direttore spirituale di Santa Gemma Galgani e delle sue confessioni per rendersi conto, insomma, di come si confessano i santi, no? Per noi però questo sacramento, quindi anche per chi di noi, spero tutti gli ascoltatori, vive lontano dal peccato mortale, quindi non ha, come dire, strettamente bisogno della penitenza per ottenere di entrare in grazia e per poter accedere alla comunione sacramentale, cosa che vi ricordo è assolutamente necessaria quando si è commessa anche un solo peccato mortale. Però la penitenza è un importantissimo mezzo ascetico per anzitutto esercitare l'umiltà, e le confessioni vanno fatte anche quando non si tratta di materie obbligatorie e necessarie, vanno fatte bene, carissimi ascoltatori, quindi vanno preparate bene. E guardate, più i peccati vengono detti con umiltà, con chiarezza, ecco, quindi senza starci troppo, senza giustificazioni, senza cose, è più fruttuosa la confessione. Ecco, io sono stato da poco, insomma, in un luogo mariano dove ci sono delle apparizioni abbastanza poco conosciute, non ancora approvate dalla Chiesa, tuttora in corso, che è Anguera in Brasile, dove ci sono dei bellissimi messaggi della Madonna sulla penitenza, dove invita a confessarsi spesso e bene, quindi dicendo bene i peccati che si commettono, anche piccoli, e citando un profondo pentimento anche per queste piccole cose. Questo è fondamentalissimo, perché noi non cadiamo mai nel vizio latente e orribile della superbia, niente di più contrario allo spirito di Maria, di San Giuseppe e di Gesù, ovviamente, che però purtroppo è sempre come una specie di araba fenice dentro di noi, per cui se non lo mortifichiamo in continuazione, questo risorge. Ed è lo strumento della confessione frequente, fatta bene però, ecco, uno validissimo, forse il più forte antidoto, perché questo non accada mai alla nostra anima. Poi c'è la penitenza virtù, di cui il Beato Bartolo Longo ha dato un piccolo saggio, quindi fare digiuni, osservare i digiuni rigorosamente, l'astinenza dalla carne e comunque la moderazione nel mangiare, sono, diciamo così, le più comuni e necessarie anche forme di penitenza da fare. Questa è una cosa oggi un pochino trascurata, gentilissimi ascoltatori, perché si fanno le diete, c'è l'idolatria del corpo, ma questo non è penitenza cristiana, capite? Questo è idolatria del corpo. Ora, alcuni santi, in maniera un pochino forte, forse anche un po' esagerata, comunque provocatoria, iperbolica, io ricordo una frase del santo curato d'Ars, ammonivano circa l'importanza di saper dominarsi, ecco, nel godere dei piaceri sensibili. Il curato d'Ars diceva che a tavola comincia la vita del corpo e finisce quella dell'anima. Questo chiaramente non vuol dire, ecco, noi dobbiamo sempre fare una distinzione tra l'eroismo dei santi, ah certo, se qualcuno vuole diventare santo si prepari a compiere dei gesti significativi anche in questo, no? Non possiamo paragonarci all'eroismo dei santi e non possiamo pretendere di fare esattamente tutto quello che hanno fatto i santi, no? Io, se una persona mi chiedesse di fare astinenza perpetua dalla carne, gli direi di no. Io lo dico subito, a meno che non ci sia una chiara ispirazione divina. Si può fare astinenza dalla carne in alcuni periodi, in quaresima, se uno vuole, d'accordo col direttore spirituale, può anche fare l'astinenza dalla carne in tutta la quaresima, cosa che del resto, prima della riforma che c'è stata nella Chiesa, sotto il vecchio regime del diritto canonico, c'era l'obbligo dell'astinenza dalla carne per tutta la quaresima, quindi era una cosa che prima era per legge della Chiesa, quindi non si tratta di un sacrificio ascetico così estremo che dici, sai, potrebbe essere controindicato. Ecco, quindi certamente non possiamo noi, ripeto, oppure fare come Santa Veronica Giuliani, che raccontano nel diario che passava la notte intera con i flagelli in mano, io non lo so come ha fatto a non morire di sanguata oppure col tetano, anche perché se uno va a Città di Castello a vedere il museo dedicato, vede che strumenti usava. Veramente c'erano delle grazie straordinarie da parte del Padre Eterno, qualche altra persona sarebbe morta dissanguata, Oppure avrebbe contratto qualche malattia, quindi a nessuno venga in mente, insomma, di fare queste cose, che, come si dice in ascetica, sono più da ammirare che da imitare. Diciamo, questo è un punto, però oggi c'è l'estremo contrario. Io non ricordo purtroppo il documento, l'ho cercato recentemente, ma ricordo di averlo letto, che Giovanni Paolo II scrisse un documentino piccolino sull'importanza del digiuno e della penitenza, dicendo, purtroppo la disciplina della Chiesa oggi è stata mitigata, però è stata mitigata un po' troppo, perché purtroppo si sta perdendo il valore e il senso soprannaturale del digiuno, che è importantissimo. Ecco, tutti penso che conoscano alcune apparizioni non riconosciute dalla Chiesa, su cui si è materia libera, in cui la Madonna lo chiede proprio il digiuno. Ecco, ma anche non volendo far riferimento, io a questa apparizione non ci credo, la Chiesa non l'ha riconosciuta e sono libero di non crederci, questo lo sappiamo che così è, no? Però nelle apparizioni mariane riconosciute, la Madonna ha sempre chiesto, insieme alla preghiera, e adesso lo vedremo, di fare dei sacrifici, di fare delle penitenze. A Lourdes, per esempio, chi conosce le apparizioni di Lourdes, la Madonna a un certo punto chiese alla piccola Bernardetta di bere l'acqua. Oggi è la festa della Natività della Madonna, ecco, quindi San Giuseppe sicuramente è contento che si parli un po' della sua sposa e di ciò che la sua sposa dice in relazione a questo tema, no? A un certo punto disse a Santa Bernadette: bevi l'acqua. E Santa Bernadette stava di fronte alla grotta a fianco al fiume Gave, se n'è andata al fiume e si è bevuta un goccetto d'acqua di fiume. La Madonna gli fece di no con la testa, dicendo: no, guarda che l'acqua ce l'hai qua sotto. Ma lì sotto non c'era nessuna acqua, c'era del fango. E Santa Bernadette gli ha fatto questo? Sì. E quella ha cominciato a scavare con le mani il fango e si è mangiata il fango misto ad acqua. Ecco, da quella buchetta che poi ha scavato con questo spirito penitenziale, questo non tutti lo sanno, è sgorgata poi la grotta, la fonte miracolosa di Lourdes, no? Un'altra volta le disse: mangia l'erba come gesto di penitenza per la conversione dei peccatori. Lo trovate nelle apparizioni di Lourdes. A Fatima, addirittura, insomma, nella quarta o nella quinta apparizione, siccome la Madonna chiedeva sempre di fare sacrifici, praticamente che era successo? Che questi bambini piccoli si erano legati alla vita una corda grezza con i nodi, ma se l'erano stretta in maniera così forte che la notte non gli faceva dormire, avevano un pochino esagerato, quindi avevano mancato di discrezione e quindi portavano questa cosa di giorno e di notte, ma talmente dolorosa che la notte non riuscivano a dormire. Quando la Madonna proprio parlò di questo, dicendo: il Signore è contento dei vostri sacrifici, ma vuole che portiate la corda soltanto di giorno, la notte toglietela. Io mi ricordo la prima volta che lessi queste apparizioni, non ero ancora molto pratico tutte queste cose, e ero un po' figlio della mentalità del mio tempo, che considera queste pratiche roba da medioevo, obsoleto. Io rimasi impressionato, perché dico: ah, guarda un po' la Madonna, mica gli ha detto toglietevi quella cosa di dosso che non serve a niente, siete piccoli e non è roba per voi. Ecco, gli ha detto di portarla soltanto di giorno, quindi questo ci fa comprendere l'importanza di questi gesti. Quindi un'altra cosa è che non si devono intraprendere mai, questo ve lo raccomando, ecco, gesti penitenziali troppo forti, questo senza dubbio è uno di loro, o digiuni, come dire, scriteriati, senza aver chiesto il parere e essersi consigliati con una persona prudente, ecco, quindi con un sacerdote, chiaramente un sacerdote che sia consapevole dell'importanza della penitenza, perché se trovate un sacerdote che, come dire, infatuato un po' da certa mentalità oggi dominante, pensa che siano cose tutti quanti inutili, non vi autorizzerà mai neanche a non mangiare una caramella per spirito penitenziale, no? Ecco, quindi è importante questo. La cosa con cui vorrei concludere, dato che il tempo vedo che sta rapidamente a venire a mancare, è l'ultima esortazione che rivolge il Beato Bartolo Longo, perché esiste certamente la penitenza virtù volontaria, quindi se io faccio un digiuno lo scelgo io, se non mangio qualcosa che mi piace lo scelgo io, se dormo per terra, come diceva qui San Giuseppe, sempre se non ho la moglie o il marito, se no, ecco, lo scelgo io. Però ci sono tante cose che ce le manda nostro Signore e che ce le chiede nostro Signore, che sono: uno, lo spirito di preghiera continua. Quindi noi dobbiamo pregare assiduamente e costantemente. Purtroppo in questo mondo dove noi non è che vediamo Dio, cioè è un'opera penitenziale che a volte ci costa fatica e questo dobbiamo farla. Accettare con amore le sofferenze che Dio ci manda, perché uno è inutile che uno fa il digiuno e poi se per esempio si muore di caldo d'estate, sta tutto il giorno a brontolare oppure va in giro nudo, perdonatemi il linguaggio esplicito, perché c'ha caldo. Il caldo è una mortificazione che ti manda il Padre Eterno, quindi tu certamente puoi averci l'aria condizionata dentro casa, non è questo qui un problema, se vuoi. Ecco, però quando esci, se ti muori, comunque vai vestito, non dico col burka, ma in maniera dignitosa e decorosa, accettando questa mortificazione. Reprimere le nostre passioni, questa è una mortificazione interna, cioè non posso fare penitenza e poi io rispondo a tutti male, e sparlo, e spettegolo, e sono sempre accigliato, sono sempre arrabbiato, e interrompo le persone che parlano, ho tutta una serie di gesti disordinati, e non sono capace di stare 5 minuti zitto e devo dire sempre la mia, e devo dire sempre l'ultima parola, eccetera, eccetera. Queste sono mortificazioni delle nostre passioni che tutti possono fare, non c'è bisogno di nessuna autorizzazione di nessun padre spirituale, perché tutti dobbiamo farle queste cose, e anche vigilare i movimenti del nostro cuore, quindi stare attenti, evitare i pensieri balordi, evitare di assecondare i cattivi desideri, evitare di assecondare, oggi siamo pieni, le cattive immagini, di soffermarci. Quindi c'è un'area della penitenza che è obbligatoria, diciamo così, che è quella che il Padre Eterno ci mette davanti, questo dobbiamo farla tutti. Ecco, chiaramente non ci riusciremo però a fare le penitenze che Dio ci manda se non ci alleniamo. Ecco, sapete che ascesi etimologicamente viene dal greco askesis, che vuol dire allenamento. Allora, praticare la penitenza sacramentale, quindi confessarsi spesso e bene, e praticare qualche penitenza volontaria, come e quanto possiamo, d'accordo con il parere di una persona prudente, certamente ci aiuterà a vivere questa dimensione fondamentale della vita cristiana, che è indispensabile perché noi siamo peccatori. E per salvare noi e gli altri nostri fratelli che sono peccatori ci vuole un po' di sana penitenza. Vi do appuntamento la prossima settimana, se credete su queste frequenze web. Vi benedico a tutti, Ave Maria.